I trans, l'ha frequentato i trans? Ma io dalla mia voce penso che... Ma che discorsi fanno? Ma perché i trans, che c'è di male? Mica sarà razzista nei confronti dei trans? Che male hanno fatto i trans? No, per l'amor di Dio, ma non può... Ma cosa cerca di cosa? Se io ma non balbetti, non si preoccupare, l'ha fatto i trans o no? Ogni no, tanto... Baldracche sì, ma trans no. Baldracche sì, trans. Senti come parla, poi eh? Siamo noi volgari. Io insomma, la zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma tu cosa fai a Natale? Cosa farai? Se parliamo di cose concrete, cosa farai a Natale? Che vita triste, non hai familiari, non ti vuole nessuno, vogliono cambiare il cognome a molti dei tuoi parenti, non entro nel merito di chi perché li ho sentiti, i fratelli, quindi non voglio neanche citarli, li hai hai esasperato talmente quel cognome che a Natale è imbarazzante averti, perché ti guardano a tavola i parenti, le nonne, ti vedono e dicono ma davvero tu, ma Giuseppino era quello dello Squirt, cioè capisci, ti guardano con imbarazzo quando vai nei posti, con imbarazzo. Ma quell'imbarazzo di chi dice ma davvero questo è mio, non mio figlio, ma insomma, è mio fratello davvero questo, l'imbarazzo di una città, di un paese, quando ti è incredibile, ecco perché tu non vuoi decidere di famiglia, perché ti guardano con imbarazzo, come quando tu hai il parente un po' matto, capito? Questo è il dramma. Vorrei chiedere a tutte ste persone che vogliono festeggiare Natale, che hanno il problema di festeggiamenti del Natale fra 15 giorni, ma che cazzo voi festeggiate che stiamo tutti con le pezze al culo economicamente? Ma che cazzo ci avete da festeggiare? Io non ne posso più del cenone di Natale, ma chi se ne frega, ma è una volta, ma state a casa, quanti siete, abitate in quattro e fate il Natale in quattro, ma che è sta roba, ma basta, mi sembra veramente stupido. Mi sembra stupido continuare a parlarne anche noi. Non ne posso più del Covid-19, sappiamo tutto del Covid-19. Attenzione, il vaccino Moderna che ci viene dagli Stati Uniti ci trasforma in OGM. Noi non possiamo oggi consumare pomodori modificati geneticamente, ma questo vaccino agisce così, cioè ci inseriscono nelle nostre cellule pezzetti di RNA che codifichino il virus verso il quale saranno prodotti gli anticorpi. D'accordo! Collegamento diretto da Roma, David Paranzo. Buonasera cari amici, nel giorno in cui Milano ricelebra la riapertura della Scala con i Big della Lirica, si torna a rivedere le stelle, una giornata storica direi per l'Italia, ma via la serata inaugurale del teatro. Ma giù il microfono subito. Con questa rottura di coglioni, cioè, giù il microfono subito. Pensate, io partirei con Fusaro. Ma stavo parlando di una delle più grandi eccellenze italiane. Io parto con Fusaro. Perché 24 dice... artisti con le aree più ma popolari. Ma che cazzo me ne frega a me qui? Cosa ce ne frega qui a noi? Della Scala. Sì, benissimo, chi se ne frega? Benissimo, dice lui, benissimo. Fusaro. Brucia un patrimonio culturale in 5 minuti. Bill Gates ci vuole sempre più subalterni, cupi e docili. Cupi, io sono felicissimo, cupi e docili, signor Fusa. Inizierei subito così, sì, prima di dirvi così. due cosette. Vabbè. Dice testualmente Bill Gates ai microfoni dell'NBC: i prossimi 4-5 mesi sembrano piuttosto cupi, a meno che non riusciamo a raddoppiare il nostro comportamento, cioè a renderci ancora più subalterni alla logica del capitalismo terapeutico, del leviatano sanitario. Come? Dobbiamo, dice Bill Gates, essere servili, docili, cedere a tutte le restrizioni che ci imporranno, perché solo così i mesi che ci attendono potranno essere forse meno cupi. I media gridano 60.000 morti, ma non dicono da Covid o con Covid. Il grande complotto che ormai ci attanaglia da mesi, spiegato qui facilmente da Fusaro. Mamma mia. Non dicono nulla, non i media, spiegato, ci spiattellano 60.000 morti, ma in realtà non è così. Proprio nella giornata di ieri, 6 dicembre 2020, si sono raggiunti da inizio pandemia i 60.000 morti. Allora? In altri termini, dal cominciamento della pandemia nel marzo 2020 a oggi si sono registrati, dicevano i telegiornali, 60.000 morti. Ovviamente non spiegavano se con Covid o di Covid, perché questa precisazione ovviamente giova all'ordine dominante non specificato. L'ordine dominante ci vuole nascondere i morti, non dicono. Però in realtà questa cosa qui la dice anche quello, il tuo amico del CTS là, che loro registrano tutti i morti, li registrano tutti, quelli con Covid, per Covid, tutti li registrano. Ma questo cosa c'entra? Tutti li registrano. Qualche sospetto può venire che ci siano meno morti? Perché devi dare sempre, perché devi essere sempre sicuro? Perché devi sempre dire sì a tutto quello che ti dice il potere costituito? Ma perché devo ascoltare le sciocchezze di Fusaro e prenderle come oro colato? Uno che dice uno che parla in quel modo ridicolo così, perché? Allora voglio dire, perché uno che questo qua del CTS, Miozzola, come si chiama? Esatto, Miozzo, da chi ti faresti curare? Senti, tu? Aspetta, tra Miozzo e Fusaro. Ti faccio un paragone, tra questo Miozzo, senti Miozzo. È la denuncia che noi facciamo, noi siamo rigorosi nel denunciare tutti coloro che muoiono il Covid e li categorizziamo morto da Covid, per Covid, da Covid, comunque Covid positivo. Sì, certo. Non è certo che molti altri paesi classifichino il soggetto 85enne che aveva una cardioplasia scompensata, lo categorizzi con scompenso cardiaco e Covid e lo metta nella classifica del Covid. Su questo bisognerà fare delle verifiche. Beh, il problema è molto semplice: se uno è pieno di metastasi e muore di tumore e poi ovviamente è in carcere e dicono che c'è il Covid, ci sono tanti casi così, lo mettono come morto Covid, questo è il punto fondamentale. Il ma comunque, tema non è questo. Tra uno come Miozzo e un passante qualsiasi, l'Italia vera, i cittadini, gli esperti, ecco, non i cosiddetti esperti, uno come per esempio questo tizio che ho trovato su TikTok, chi è? C'è il media TikTok, sono anch'io su TikTok, ma cosa vuol dire? È bello, vedi? Sei su TikTok, perché uno non può avere... Ci sono anch'io su TikTok, ma non mi paragono a questi personaggi di cui tu parli, in alcun modo. Non mi sento di sostituirmi a nessuno di questi professori. Senti questo. Qui uno vale uno. Ecco, questo sei è il tuo al dramma. Governo, sei Hai al governo con questi. No, tu stai distruggendo tu del PD, questo paese. Sei al governo. No, io non sono del PD, uno ma vale governo. Uno, è uguale, ma sullo stesso piano. Stai distruggendo questo paese. Tu io capisco la Confindustria veramente, io non capisco veramente come possa andare in onda questa roba, non ho idea. Allora, ma vedete che tutto secondo copione. Dov'è? A livello mondiale provano delle emergenze planetarie, aspettano la reazione della gente, quando tutti stanno terrorizzati, sono loro stessi che provano la soluzione, in questo caso il vaccino. Ma qual è la variabile impazzita? Che ormai il loro giochino è stato scoperto, ormai non ci funziona più, non è che la gente sta tutta rincoglionita, c'è un 20-30% che si sono svegliati, allora e ormai hanno capito tutto. Allora, ma la cosa incredibile è che loro praticamente questi qua, ma in maniera arrogante, pensano che tutti veramente credono che c'è nato la pandemia, che sta uccidendo milioni di persone e che tutti accetteranno un vaccino che proviene da Bill Gates, vuole sterminare l'umanità, che l'ha pure dichiarato, e tra l'altro questo vaccino dopo un mese è già pronto, senza sperimentazione. Ma ci prendete per il culo? Ma pensate che siamo veramente coglioni fino a questo punto? Diffondete! Scusa, secondo te questa trasmissione andrebbe chiusa per irresponsabilità? Sì. Secondo sì. te il sì. CTS dovrebbe ordinare il CTS dovrebbe tra ordinare le cose, la chiusura? Nel DPCM dovrebbe esserci l'immediata chiusura e il sequestro preventivo di questa fascia oraria. Sì. Al posto di questa trasmissione andrebbe mandato in onda in diretta il comitato tecnico scientifico che spiega per due ore cosa fare, cosa non fare. Oppure andare, un bel tutorial di Burioni. Oppure un bellissimo tutorial del professor Burioni che spiega quanto siete dannosi voi negazionisti, voi produttori di fake news per il paese. Questa trasmissione è irresponsabile. Scusami un attimo, ma tu di fronte a questa meravigliosa libertà che esiste in questo luogo, libertà, questa meravigliosa libertà, oppure queste facce terrorizzanti di due signori, uno si chiama Galli, l'altro si chiama Ricciardi. Io spero che tu non ti debba mai curare, sai? Allora, perché io farò di tutto per salvarti quando tu starai molto male, io te lo dico. Tu starai molto male. E io però farò di tutto perché alla fine ti voglio bene per salvarti. E ti porterò da Galli. Ti porterò da Galli. Anche se meriteresti di essere curato da Bacco, dal Cassamortaro Bacco. Tu meriteresti di essere curato da Bacco, ma invece io, che sono chiamerai gentile Galli, e buono Galli, e che alla fine ti voglio bene, ti chiamerò Galli al tuo capezzale. Sì, Galli può dire speriamo che arrivino in tempo. Galli può dire una cazzata, come ha detto, che io te li porto tutti per curarti. Aspetta, la Capua te la faccio venire dall'America. Quando tu meriteresti di essere curato su una cassa da morto da Bacco, questo meriteresti. Posso dirti una cosa? Questo dà diritto a Galli di dire una cosa di questo tipo? Sentiamo, cioè il fatto di essere ormai diventato un guru, eccetera, che l'estate ci è costata 20.000 morti. Sì, stavo per dirlo. È una così. Puttanata. Io lo dico, io è una puttanata. Dire, lo dicono anche, lo dicono tutti. È una puttanata. Non è vero. È una delle tante tesi. Cioè, non è che non è vero. Sbagliato anch'io. Ondata, è una puttanata. Esatto, è una stronzata. Avevi negato che ci sarebbe stata. Senti, avevi senti Galli, negato. Ma figurati. Negato. Altrimenti cantiamo la stessa canzone che è stata cantata più volte. Certo. Anche spesso stonando nel periodo estivo il mancato rispetto delle note di questa canzone ci ha portato, ahimè, alla ripresa, dalla terribile ripresa autunnale che ha comportato a questo punto, guardi, è un conto che mi fa veramente fatica a fare, ma più di 20.000 morti che avremmo potuto in larga misura evitare. Ma chi lo dice? Chi lo dice? Chi lo sostiene? Una cazzata pazzesca, è una cazzata pazzesca, proprio è ripreso dopo, non c'entra niente l'estate. Poi dobbiamo vivere, non possiamo morire tumulati come vorrebbe Parenzo, tumulati. No, nessuno vuole vivere tumulato, nessuno. Ah, Parenzo, sei una merda umana. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Bill Gates. Sai come me li incappetto a sto giro, pezzi di merda, non hanno messo il 24 nel DPCM, il 24 prendo la mia bella famigliola, i miei bambini, me ne vado dai miei a dormire, mi passo 24, 25, 26 fuori dal comune, pezzi di merda, venitemi a chiappare, dai. La paura vi sta dando alla testa. Allora, uscendo dalla questione Covid, perché non attacchi come hai fatto con me, come hai fatto con Feltri, come hai fatto con la Azzurra Barbuto e con altre persone ancora? Con la signora Barbuto, come hai fatto con la signora Barbuto? Chi sì. Barbuto? Perché non attacchi allo stesso se la modo? La nomino, poi lei mi querela. Chi è Barbuto? È una che lavora per il Quotidiano Libero, una redattrice del Quotidiano Libero. Non ho altre domande, vostro onore. Perché non attacchi l'avvocato Bernardini De Pace? Perché ha detto le stesse cose. Anzi, ha detto di più. Non condivido ha detto di modo, più. Infatti. Allora, l'avvocato Bernardini De Pace. Tendo però a famosa, non attaccare l'avvocato Bernardini De Pace. Famosa divorzista, beh, non devi divorziare perché, tu, però no, devi ma divorziare. Comunque sai, è uno più, come dire, l'avvocato è sempre. Ma sai com'è? È sempre rischioso. Ma ho capito cosa c'è. Ma sai. Tendo a prenderla alla larga. Non ti preoccupare, una mia amica. Non ti faccio prenderla alla larga. Non ti faccio querelare, non ti preoccupare. Se un'altra persona, direi che ha detto una cagata pazzesca. Dopodiché invece tendo a prendere alla larga dicendo che è un testo sul quale si può ragionare, è un testo su, anzi, sul quale si deve ragionare, su quale si deve non sono minimamente d'accordo, non sono minimamente però è un testo sul quale si deve ragionare, si impone una riflessione. L'avesse scritto e detto la Barbuto, saresti Barbuto. Saltato addosso amico a Feltri, mio, l'avesse detto Feltri, saresti saltato addosso mio, Alberto Genovese andrebbe torturato come ha fatto con la sua vittima. così ha detto. Perché non dici niente? Semplicemente perché un avvocato, la signora Bernardini De Pace. È un testo perché hai paura. No. È un testo sul quale bisogna ragionare. Se diciamo dipendesse così da me, andrebbe torturato esattamente come ha fatto lui con la sua giovane vittima. Diciamo, dice l'avvocato. Dice quando l'avvocato l'ho letto, ho detto: chi ha detto sta stronzata? Appena l'ho letto subito. Poi ho visto l'autore. Ho detto: beh, forse è un testo sul quale bisogna ragionare. Sul quale bisogna. Poi ragionare. Ha detto: se ti violentano la domenica mattina, no, esattamente quello che ho detto io. Ragazzi, se ti violentano la domenica mattina mentre fai jogging, sì, mentre corri è al parco, cazzata, non ti puoi rimproverare nulla. Ma se vai a un droga party, ti fai sequestrare il telefonino e assumi stupefacenti, ti sei messi in una situazione a rischio. Ragazzi, io 20 giorni fa, 20 giorni fa, quando è successo il fattaccio, quando è venuto a galla il fattaccio, ho detto le stesse cose. Dissi che è una cazzata. Non è una cazzata per niente, cazzata. Non c'entra colpevolizzare. Anzi, lei le modalità con le quali questa ragazza è andata lì nulla hanno a che vedere con gli esiti di quella serata. Non poteva immaginare che ci sarebbero stati questi esiti. L'avesse detto Feltri, come ha detto. No, l'avesse detto cazzata, la Barbuto, dai, sulla ragazzi, tortura di Genovese in carcere. La Barbuto, non nominare il nome di querela, se no lei, perché non si può più dire il nome Barbuto, ha detto. Non so perché siete bullizzati. Uno dice: secondo la capua, non bisogna muoversi. Non bisogna muoversi, dice Cenone. Ecco, non bisogna muoversi, Cenone, fermo, non bisogna muoversi. A casa con i tuoi parenti, dove ti muovi? Tu dove in vai? In generale dico, perché non una persona. No, chi dice che non bisogna muoversi commette un crimine. C'è la libertà di movimento. Danimarca, nuovo lockdown. La libertà di movimento adesso, chiuse scuole e locali. Ma a chi Natale me ne frega, la Danimarca. Danimarca! Capua. La Danimarca, capua, a Natale capua. Incontri limitati. Prima del cenone, prima della cena, non sarà un cenone, ma della cena, andare a fare subito un tampone rapido ha senso? No, non bisogna muoversi. Appunto. Non bisogna muoversi. Mi dispiace, cioè, non vi dico queste cose, non vi dico non che muoversi. C'è un come si dice, una scorciatoia. Non c'è la scorciatoia. Certo. Più persone si muovono, più il virus circola e più persone finiranno in ospedale. Ma ho capito, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma uno può vivere blindato? Blindato! Ma poi hanno detto che non ci si può muovere tra le regioni dopo il 21, no? Tu sai che cosa è successo? È tutto pieno adesso. Se tu vuoi muoverti prima del 20, è tutto pieno, tutto prenotato. Andranno in giro tutti stipati verso Pensa il sud. Pensa cosa sarebbe accaduto. No, sarebbe stato più diluito. Con le corse il 24 prima ma di Natale. Ma tu mi spieghi perché un povero Cristo, non parlo del sottoscritto che non è un povero Cristo, un povero Cristo non può andare in una casetta in campagna, in un'altra regione dopo il 20? Perché non perché ci può andare? Perché la razio della perché norma è da quella solo, di evitare che la gente si incontri con figlia. Altre persone. Ma tu non hai compagni, tu sei una persona sola e non hai Gabriele, nessuno. Provincia da Rimini. E parleremo nel corso della diretta del tuo pranzo di oggi. Io non dico con chi l'hai fatto, anzi forse alla fine potrei anche svelarlo. No, che cosa avete dici? Mangiato tartufi? Vero, sì. È stata aperta una bottiglia da 500 euro. Il ma tuo pranzo di oggi sai, tu, è costato 1000 euro. Gabriele, provincia quanto di Rimini. Quanto prende un operaio qualunque ti chiama qui? Gabriele. Amici che lo chiamate, lo vellicate. Ma cosa Cruciani c'entra? Non è un uomo del popolo. Oggi ha speso 1000 io euro non ho speso per un pranzo. Ah, tu no. Ma la cosa dici? Ma è falso totalmente, Gabriele. 1000 euro, 500 euro di bottiglia di vino più tartufo. Gabriele, tartufo. Gabriele. Una vergogna. Basta una vergogna. Parlare. Oh, scusami, Gabriele. Rosse, nere, scure, grise. Parliamo di Bernarda. Parliamo di Basagna. Parliamo di gnocca. Sì, parliamo di castagne. Sì, Gabriele, dimmi che c'è. Che c'è? Io sono disperato come l'altro lunedì perché sono rossa, sono grigia. Io mi piace la zona nera. La zona nera, dove si entra e si esce, poi si va avanti e indietro. A me mi piace quella zona rossa. Ah, tu sei romagnolo. Scusami, Gabriele. Noi romagnoli siamo dei tori scatenati. Sì. Siamo dei montoni, non quelli del sud, dico quelli del sud, i siciliani. Noi romagnoli siamo i veri montatori italiani. Secondo me questo neanche gli tira. Ma quali siciliani? Uno che parla così secondo me neanche gli tira. Scusami Gabriele, ma tu perché sei a me non mi tira? Portami a casa la tua parente, che glielo faccio io il tampone, Parenzo, la tampono io, la tampono io. E poi te la rimando a casa, vedi che piange. uno che parla così, come scusami, minimo ce l'ha perché, microscopico. Perché sei come affatto? Minimo. Io ce l'ho come Corinto. Scusami, lo sai che Corinto Gabriele, è il toro. Gabriele, è il toro, è Gabriele, perché sei affranto in questo periodo, come lunedì scorso? Sono disperato, che affranto, perché? Disperato. Perché? Perché io non posso andare in quel posto ai confini dell'Austria che si chiama. Ah, ma vuoi tu? Sì, sì. Questo solo se paga. Le voglio dire, no, che vado. Solo pagamento lo fai, bravo. Dimmi, Gabriele. La chiamata che abbiamo fatto lunedì, sa che cinque ragazze del Welcome mi hanno mandato il messaggio dicendo tu sei il vero cliente del Welcome, perché dici le cose come abbiamo fatto i complimenti. Ma lei chiamate cagne? Sono delle cagne, loro mica sono offese perché sono delle cagne. Ma che vuol dire? Ma la cosa, ma adesso, sono delle cagne assatanate di soldi, come gli piace anche l'uccello, però gli piace anche i soldi, sono assatanate. Torniamo fra pochissimo con Gabriele dalla provincia di Rimini che distrugge il vocabolario politicamente corretto. Fermi tutti. La zanzara. Baggiù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. Statisticamente provato che più sono omofobi e più la prendono nel culo. Ciao. Cruciani, mentre ascolto la zanzara, la mia ragazza che mi taglia i peli del cazzo e mi depila. Dillo. Ma davvero? Sì. E niente, siamo al top. Rux, la mia ragazza che ti vede in diretta dalla Durso, che mi fa... Toma, quello lì è Cruciani che ascolti tu alla zanzara. Faccio sì, perché... Oh, ma sai che mi fa sesso? Incredibile. Allora ragazzi, riprendiamo subito con gli ascoltatori, subito. Ma mi date, siccome uno vale uno qui, uno vale uno sempre, Parenzo, uno vale uno. Pazzesco, l'opinione pazzesco di un ascoltatore vale come, un, ma come che, quella che di un comitato, di un membro messo del comitato tecnico scientifico. Ma come sei vestito? Ma che modo ridicolo la gente ti non sei è che vestito? Le webcam, non è la televisione. Dai. Comunque la cosa più emozionante è l'inno di Mameli intonato a cappella nel teatro no, vuoto a Milano. Ma chi se ne frega di queste puttanate? Ma non fai faccio sentire un cazzo. L'inno di Mameli intonato a cappella nel teatro. Un cazzo. Un'emozione fammi sentire vera questo, per Milano, una fammi sentire questo matto città per strada. Fatemi sentire sto matto per strada col megafono, cosa dice sui vaccini, eccetera. Fatemi sentire questo. Mi piace portare la museruola. Tra qualche mese sarà un anno che vi siete abituati a portare la museruola. Vi dicono che è necessario perché c'è un virus che stermina la gente. Non si tornerà mai più come prima. L'alternativa che vi stanno dando è di accettare un'altra maschera sotto la pelle, nel vostro corpo, con medicine, vaccini, microchip, controllo telematico, il 5G. Diventerete esattamente come i cani che avete a casa, avrete il guinzaglio telematico. In questa trasmissione, caro David, uno vale uno. Ma non occorre che lo ripeti. Uno vale ma uno. Ma perché non è uno vale uno, è un idiota vale quanto allora, una, Gabriele, uno che ha studiato. Gabriele, Sì, pronti. Allora, io siamo voglio fare riascoltare, però questo è un personaggio straordinario. Gabriele, grande puttaniere, frequentatore del Welcome da anni. Che c'è da vantarsi? No, certo che c'è da vantarsi, assolutamente c'è da vantarsi. C'è da rimarcarlo, giusto Gabriele? C'è da dirlo. Allora, il sì, tuo... Cruciani, scusi, quello col megafono, chi era? Il Vichingo per caso? Io sono un amico che si chiama Vichingo. Che no, va con non una è... tonaca da prete. Sì, quello... va... No, non è il Vichingo. Anche lui è un grande scopatore. Adesso è diventato frocio. Ma una volta ti dava. Ma non è frocio. Adesso ho perso caso dei colpi, dai. Signor Gabriele, comunque, andiamo avanti. Aspetta, Gabriele, è diventato famoso perché è un audio che è circolato un po' ovunque, caro Parenzo, per un intervento della settimana scorsa, esattamente lunedì scorso, che io vorrei rimandare in onda perché è una perla assoluta di questa trasmissione, caro David. È questo l'intervento di Gabriele da Rimini, dalla provincia di Rimini, esattamente da Misano, se non sbaglio, caro Gabriele. Abbiamo chiamato 50 persone a farmi complimenti. Ho detto, ti rialza la bandiera della che Romagna. Paese. Ma la Romagna, siamo degli scopatori, ma cosa, la bandiera della Romagna. La Romagna è conosciuta per il cibo, è conosciuta per la grande innovazione in materia di macchine e di moto, è conosciuta per le spiagge, non per queste porcherie sue. Lei fa il disonore dell'Emilia e della Romagna. I Bagnini negli anni 60 hanno fatto una strage e noi che siamo i nipoti dei Bagnini ci diamo come loro. Ma chi allora, se ne frega? Fermola, questo è l'intervento di lunedì scorso, mandiamolo subito. Mamma mia, Gabriele dalla provincia di Rimini, vai! Buonasera, Cruciani! Dimmi, Gabriele, dimmi. Allora, io voglio andare a Zoccole, a Cagni, a puttane, io voglio andare a Capodanno, grazie per aver chiamato Radio 24. Intanto grazie per questo suo contributo di oggi. Io per Natale e Capodanno voglio andare a Troia, sì, voi non capite intanto il problema mio. Grazie per aver chiamato il gruppo della Confindustria, grazie per aver chiamato. Io voglio andare a Bagliasce subito. Questo è un mio diritto andare a Bagliasce. Io lavoro tutto l'anno e voglio andare tre volte l'anno. Rinnovo il suo ringraziamento per essere intervenuto in questa trasmissione. Ma no, sei chiuso. Anche quel nano inutile che mi vicino. No, però ma vuole, scusami, Gabriele. È però... stato il welcome. No. Io sono un italiano. No. Socio onorario. Però... E scopo come un animale. Scusami, perché non chiama uno che è socio onorario del Rotary Club? Da copertina. Scusami, Gabriele, però io capisco che tu che scopo vuoi scopare welcome, vuoi la prima chiamata della settimana, capisci perché dico che è disastro? Hai ragione, la prima chiamata della settimana, la prima chiamata della settimana. Gabriele, ma se è chiuso il welcome, vai a trovare una zoccola da qualsiasi altra parte, vai, chiama non un escort per telefono. Perché lì è come entrare in un'area, mi ti senti un gladiatore nell'arena, tu se lo capisci e mi capisci. Ma ho capito, ma che colpa abbiamo noi se welcome è chiuso, sono le autorità austriache che l'hanno fatto chiudere welcome, il bordello austriaco, quello dopo Villach, dove anch'io sono stato peraltro. Gabriele, non è colpa mia, è però di... andare con una puttana semplice così, Parenzo, non è bello come entrare lì, lì sei un gladiatore, capito, lì Parenzo, sei questa, come questa massimo il gladiatore Grazie romano. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Posso chiedere una cosa? Posso dei pezzi di figa che se ti mettono una benda, dove prendi prendi, a Mosca cieca, trovi un figone della Madonna, ma cosa stai dicendo? No, ho capito, Gabriele, però non è la stessa cosa che essere in un'arena e fare un combattimento, non devi combattere con nessuno, lì sono apposta per darti la figa. No, sono delle cagne assaggiate di sangue. Posso chiedere una cortesia? Le posso chiedere una cortesia? Non pronunci mai il mio nome, lei! Non pronunci mai il mio nome! Chiuso! Fermi tutti! Che disastro, che disastro! Fermi tutti! Chiudere questa trasmissione. Da brividi. Questa fu la prima puntata. Gabriele, rispetto alla settimana scorsa, che c'è da aggiungere? Cresce l'ansia, immagino che cresca l'ansia, immagino. Sì, no, l'ansia è già cresciuta. No, ti spiego, voglio tornare al discorso delle cagne assaturate di sangue. Ti spiego perché io descrivo cagne assaturate di sangue. Io arrivo al welcome a mezzogiorno. Sì, pure. A mezzogiorno parcheggio la macchina. Adesso riapre il 7, riapre. No, no. Ferma, ci sono i papponi, sì. I papponi che sono dei ragazzi di 25-30 anni, vabbè, allora... che portano le cagne al lavoro, sì. I papponi, i ragazzi, i fidanzati, chiamiamolo come ci pare, bello. Io non chiamo sono papponi, saranno i fidanzati, come non sono papponi, sono i consigli con 36 denti, ma e no, ti guardano, no, non sono come dire, vedi, questo qua si porta oltre la mancetta, la paghetta, non sono i papponi, lo ammettono anche loro, vabbè, che allora... sono i papponi, allora, i papponi ridono perché tu vai là e le vai a scopare sue morose. Loro sono contente che le vai a scopare. Sono contente che tiri fuori della pilla, della moneta che le paghi. E quelle non sono le cagne sanate di sangue. Ma poi cagne, dopo ancora, ma come si permette? Sono delle fighe della Madonna. Ma scusami, e Gabriele, ma tu non puoi rinunciare ad andare a questi bordelli. Io lo rinuncio perché io ho 48 anni. anni, sì, non sono fidanzato, non sono sposato, sto come un signore, perché fortunatamente la salute c'è, lavoro, ho finito adesso di lavorare, ho finito mezz'ora fa di lavorare, sì. Allora non ha nessun tipo di relazione con nessuna posto, donna se non a pagamento, un altro posto dove uno di 48 anni che brutto, non ha né fidanzata né morosa né moglie brutto, né figlia a carico può andare. Scusa, Gabriele, ma tu lo sai, non hai paura del Covid, perché dicono adesso, per terrorizzarci ancora di più, perché se ti becchi il Covid sostanzialmente hai problemi di erezione, perché prende, cioè, anche la i testicoli, cosa grave problemi, è che questo qua non è problemi grave, gravi, una relazione normale. La cosa patetica è che questo signore qua, non essendo in grado, a 48 anni, quindi a qualche anno un po' più vecchio di me e un po' più giovane di Cruciani, non è in grado di avere una relazione normale con una ma ragazza, che ne sai? E quindi no, è costretto questo, a fare il ganassa. Tu vai a Monselice, vai Monselice, a Sorrisino, sì, ne ho scopate 10 a Monselice, ma cosa hai fatto? Ma figurati, ne ho scopate 20 anni, ma figurati, ma chi è che si vanta? A 50 anni a fare il deficiente, ti io vanti così, ma vergognati. Ma capito, ma non è che uno a Sorrisino andavi nelle stalle, tu paghi e basta, non scopi una normalmente perché ti piace la bici, sarai Cruciani, quanti anni hai tu, se me lo puoi dire? 55. 54, io ne ho 48, io ti dico, fino a 40 anni non le ho pagate, poi dopo, fra il lavoro, una cosa un'altra, poi la lavoro, qualità invece è altissima, sì, ho iniziato a pagare, perché ma io non te la pago, davo più sopra, perché siccome pagare, sei un poveretto, ma perché sei un poveretto, perché non puoi avere una relazione normale, quindi sei costretto a pagare. Ma non è un caso normale, Cruciani, se la volevo avere l'avrei avuta, dai. Ciao. Io a me sai cos'è, io ti dico, sono un romagnolo, noi non stiamo buoni, ci piace cambiare, ciao, noi ciao, siamo degli zingari, ciao, io se sono ristorante con una figa, io con un figone, con una minigonna, io ti guardo, quella che è con me può fare, ma cosa qua, ma non viene nessuno a mangiare con te, io la gente guardo, si vergogna di te, ma le persone si vergognano di te, che si vergogna, tu sei buono solo a parlare di politica e di altre cazzate che gli amici, parla di figa, mandami la nipote se ce l'hai, che gli faccio il tampone, mandami la cugina, sta arrivando a casa. Quale tampone? Ciao, maiale, ciao, che non sei altro. Antonio da Roma, avanti. Mamma tutta, mia, avanti le tutta. Telefonate del pubblico. Avanti, avanti tutta, Antonio, dimmi. Eccomi, io volevo parlare con quel nano malefico di Davide buonasera Parenzo. Buonasera e benvenuto, grazie per la chiamata alle 19:26. Grazie. Ma tu, no, che vorresti tanto rendere obbligatorio il vaccino, dimmi una cosa, no, fammi capire una cosa. Sì. Ma tu alle tue figlie le lo faresti adesso? Io ho quattro figli, li ho fatti, allora ascoltami, quattro figli. La prima di 13 anni, Margherita, il secondo di 7, di 6. Il terzo di 5 e l'altra di 5 mesi. Allora, tutti vaccinati, i primi tre, ai primi tre, addirittura ho fatto quello contro l'influenza. Tu mi devi dire se gli faresti quello sul Covid, sì, no, quello influenzale. No, perché i bambini, no, ti spiego, genio della lampada, perché siccome lo devono fare gli adulti, diciamo, i grandi, a quella grande probabilmente glielo farò, quella che ha 13 anni, agli altri non ha senso, perché certo, io vorrei venire a vederti, perché tu mi dividi come fai a avere il coraggio. Io ti mando la foto di quando lo faccio io, mia moglie lo facciamo. Ma tu dimmi quanti amici c'hai nelle case farmaceutiche, ma che c'entra? Scusa, Antonio, intanto la questione, posso dirle che una persona sopra il 1,69 non è un nano, io sono 1,72 peraltro. No, ma del cervello sei proprio nano, fatto così, tranquillo, del cervello proprio nano. Ha parlato Gulliver, avanti tutto, il popolo che parla, non parla la gente. Sono un branco di imbecilli che parla chiamano. La gente non Loris, è la gente, sono un branco di imbecilli Loris che chiamano, perché solo un idiota chiama questa trasmissione. Dimmi Loris, dimmi. Ciao Cruciani, uno dimmi. Vale uno, no? Sempre. Ecco, meno male. Sentiamola. No, io voglio compiere il tuo momento ludico. Sì. Posso? Sì, vai. Ecco, allora passami Parenzo. E sta qua Parenzo, dove che sia, passami, non è qua, privato la telefonata. Ma dai, su, non fare sempre il polemico, dimmi, voglio parlare con Parenzo. E qui, è qui, allora, dimmi. Loris, da Parenzo, da Parenzo, no niente, parlo con te perché con lui non dimmi, si può parlare. Dimmi Loris, caro. Dimmi. No, voglio dire, voglio rompere questo momento ludico. Sì, l'hai già detto però, vai veloce, veloce, dica, rapido. Loris, ma, dica. Abbassate la voce a Cruciani un momento. Loris. Allora, dai. No, voglio dire solo questa cosa qui. Parenzo. Oggi è stata uccisa una ragazza di 29 anni. Sì, malissimo, certo, male. Non è femminicidio, omicidio. Classificato come solito femminicidio. Non è femminicidio, no? omicidio. Certo. Ammazzano donne, ammazzano uomini, eccetera. Anzi, ecco, ma va bene, ma no, non lascia stare. Qual è il punto? Questa qui siamo oltre all'ammazzare. Questa qui è diventata una piaga sociale. Una piaga sociale cosa? Una piaga sociale, una piaga sociale che ormai, con la sua trasmissione... Ma Loris, non è vero, sono diminuiti gli omicidi di donne. Come un buco da penetrare. Ma tu sei pazzo, ma tu sei fuori di testa. Ma è questo qui che ha chiamato, era prima, era ma tu sei fuori di testa, ma tu sei pazzo, ma tu sei un criminale. Ma io lasciami parlare, io considero le donne così, io considero le donne sicuramente meglio di quanto le consideri tu. Hai esaltato questo matto della legge. Ma questo qua è uno che vuole scopare, mica uno. Meno male che uno vale un criminale, uno vuole, vale scopare, uno. Vuole scopare uno questo vale qua. Uno quando sei d'accordo con te, però. Loris, allora, muto, decido io, tu qua sei ospite, io sono il re di questo luogo, sono il dittatore di questo luogo, dunque parli quando lo dico io, fermo là. La Zanzara. Quando la Martani ha detto che ci sono uomini che fanno venire con le parole, io ho subito pensato a David e a Francesco da Firenze. Parenzo è un feto, non è un bambino. Vabbè, quindi sostanzialmente quando Hitler ha fatto gli esperimenti, naturalmente gli scienziati nazisti hanno fatto gli esperimenti sui feti, quindi tutto a posto, niente da dire secondo te? Allora, caro David, c'è una pubblicità, un dei manifesti che sono stati affissi a Milano, a Roma, di un'associazione che è contro l'aborto, perché è legittimo essere contro l'aborto, io sono a favore dell'aborto, naturalmente. È legittimo essere contro l'aborto, senza dubbio, ma quei manifesti sono orrendi, vergognosi. No, non sono orrendi, sono espressione di una libertà, che è quella di manifestare pubblicamente il proprio dissenso nei confronti... Ma non di offendere le donne. Ma no, quei manifesti offendono le donne, che alla fine sono le uniche titolate a dire ma sì o no detto? Ma a non una è vero. Pratica è una... che incide sul loro corpo. Ma potrà decidere anche un uomo che mette incinta una donna oppure no? No, certo, la donna... io sono da... l'uomo non deve, non può, può dire, può stare vicino alla propria compagna. C'è una che mette in cintura, non può dire niente. Cioè, no, non può dire può niente. Dire, ma non ha, no, ma l'ultima parola c'è. Ma certo, l'ultima parola, parola, certo, perché il corpo è il corpo. Ma deve avere anche l'uomo quella sensibilità giusta per avvicinarsi. No, vabbè, no, allora, davvero, manifesti... io penso che l'uomo non debba dire i niente. I manifesti sono questi: prenderesti mai del veleno? Stoppa la pillola abortiva RU486, sì, che è la pillola che si prende. Scrivi cosa c'è, perché questa è una donna. Una donna con una mela avvelenata, diciamo, che è presunta avvelenata. E mette a rischio la salute e la vita delle donne e uccide il figlio nel grembo. Vabbè, questi sono antiabortisti, che cazzo devono fare? Fanno una comunicazione contro l'aborto. Comunista? Cioè... Ma perché comunista? Ma io sono a favore anche di andare oltre le 9 settimane. Quanto è il limite adesso? 9 settimane? No. Quant'è? Io sono anche per andare oltre, che si potrebbe abortire anche alla 10ª, all'11ª, beh, 12ª. Quello vai a Londra, in Inghilterra. Ma sì, oltre. Esatto, io sono a favore anche di questa cosa. Dipende, però uno può dipende. Essere anche contro l'aborto. Ma qual è il problema? Certo. Non ho capito. Può essere anche contro legittimamente. Contro l'aborto. È l'unica persona che è molto esperta di aborto è il professor Viale. Ma quello è il dottor Morte, grande militante e dirigente radicale, ma soprattutto un medico. Sì, un grande medico posso dirti italiano. Che la pensa sul Covid, la pensa esattamente all'opposto di come la pensi tu. Questo può essere esattamente ma il mio rispetto all'opposto per il grande professor Loris. Viale. C'era Loris con noi, vai Loris, dimmi. Ah, eccolo, ecco. Che cazzo vuoi, dimmi. Ma smettila su, smettilo sempre con questo linguaggio. Non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere, vai al sodo, forza. Ecco, vado al sodo. Voglio, allora, Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione lo fai solo per lavoro, quindi... Lungo, lento, sei lento, non funziona, non funziona, lento, te lo ripeto, oggi è morta una ragazza di 29 anni, noioso. La tua trasmissione che considera la donna Sì, l'hai già detto questo, delle sue parole c'è soltanto banalità. sì, non c'è, esatto, violenza, dai, naturalmente, dai. C'è solo, allora, banalità. Io voglio solo dire, assuefazione, a parte che non volevo parlare con te, allora, programma del pomeriggio, questo qui, allora, dai, una discussione del pomeriggio, non va, non andrà mai in prime time. Sono stato il tuo primo spot. Ciao Lori, si è rotto il cazzo, ci ha rotti così. Lentezza enorme. Tutti quelli che sono a tuo favore sono lenti. Come mai? Cioè, ma come vogliono mai? Ragionare. Ma come perché mai? Vogliono ragionare. Paolo da Roma, vai Paolo, dimmi Paolo. È incredibile. Ciao ragazzi, ciao, dimmi, dimmi, ciao, dimmi. Ciao, sono molto incazzato. A parte l'infertilità, Brugia, l'infertilità. Parte... Adesso ma ci vogliono che fine ha fatto il nostro amico Trump? Brugia. Ci vogliono terrorizzare con l'infertilità. Cioè, ci vogliono terrorizzare dicendo che se ci prendiamo il Covid ci può essere, beh, ci può essere anche l'infertilità. No, no, ci può essere anche. Stai attento. C'è una delle cinque famose malattie, no? Rosolia, parotite. Tra gli effetti del Covid c'è il calo della libido sessuale maschile. I famosi 15% dei pazienti. Beh, certo, una di quelle famose malattie lì rischiavano di rendere sterile i maschi. Ma quello tutto, che c'entra anche l'influenza normale, se la pigli male. Dai, su, Paolo, dimmi allora. Che cazzo vuoi? Dimmi. Senti, Lucia, devo dire una cosa, ma tu vai in giro con l'autocertificazione? Io vado in giro con nulla, spesso vado in giro anche oltre le 22, lo posso dichiarare, anche oltre le 22 ogni tanto mi succede. E dove vai? Mi succede, vado a trovare amici, potrò andare o no? Si potrà essere liberi o no? No, le 22 no. E va bene, mi auto, ecco, mi confesso, alzo le mani. Ogni tanto giro, no, vado a cena fuori, vado a cena a casa di amici. A cena fuori non si va, a cena fuori, dopo una certa ora non si va fuori. Io vado, torno, vale, alle 11:30, mezzanotte con la macchina. Non c'è nessuno. Altro che 70.000 persone della Lamorgese che oggi se ha preso tutti il COVID, facessero come te, i droni e 70.000 persone per terrorizzare te, le persone. Se tutti facessero ma come te, ma lo fanno. Se tu, lo perché fanno. Secondo te a me non va di andare a cena da Pardo, ad esempio, che so. Ma vai, va da Pardo. E torni alle 11:30, non è no, che uno può secondo te a me non va di andare a cena da Pardo, ad esempio, secondo te? Vabbè, Paolo, che vuoi? Non ho capito. Ma ti dicevo la certificazione per quel maglione che porti. Ma vaffanculo, ciao. Luigi da Cosenza, avanti tutta, Luigi da Cosenza, vai. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Tra gli effetti dell'infezione, tra gli effetti dell'infezione c'è anche la compromissione della qualità e della quantità del liquido seminale negli uomini. Beh, io ti auguro che dipende da una vasculite testicolare presente, secondo i primi dati grezzi, nel 15% dei casi positivi. Beh, capisci che la è meglio non prenderlo. La vasculite è un'infiammazione testicolare facilitata dal recettore ACE 2 e può alterare la qualità e la quantità del liquido seminale. Beh, capisci che è meglio non prenderlo? Provocando una condizione nota come ipogonadismo, una riduzione dell'attività funzionale dei testicoli. Tra i sintomi principali di questa condizione non bisogna sottovalutare ad esempio la difficoltà a raggiungere o mantenere un'erezione. Il calo della ti libido dovrebbe preoccupare, quindi roba, un diminuito desiderio di impegnarsi in attività appunto, sessuale o un'alterazione quali quantitativa del liquido seminale. Ragazzi, ma dai, su, ti dovrebbe preoccupare questo. Ah, quindi non c'ho gli effetti collaterali per lui. Luigi, dimmi. Ma allora, lo schiavo di David Parento, lo schiavo di Stato, perché una persona schiavo che di Stato, difende, sì, esatto, schiavo di Stato, signore, sì, schiavo di Stato. Schiavo di una Stato, persona che difende a spada tratta la gestione di questo governo balordo incapace, di certo non può io essere. Io non ho difeso a spada tratta. Mentono su tutto, questo governo io mente su tutto. Singolarmente su tutto. Cosa viene detto è un fatto. Titolo della verità dei giorni scorsi. Mentono su tutto, è vero, mentono su tutto. Calabria, Giuseppe, dalla Calabria, una regione che ultimamente vabbè, che vuoi dire però? Andiamo al sodo. No, non ultimamente, no, ma sempre, se mi posso perché permettere. Perché il caro David Parenzo che ha detto sempre che questo governo fa bene con la restrizione qua. Dipende, non fa sempre bene. Io vorrei farlo venire in Calabria perché da qui a qualche mese si celebrerà il funerale di questa regione. Ma perché in generale amico mio, il funerale del paese, il funerale delle, della Calabria delle non si sta celebrando adesso, sì, questo amico caro. Questo pure amico caro. Perché non hanno fatto nulla, questo dovevano fare azioni di defiscalizzazione dei contributi, vabbè, non hanno fatto nulla, erogato finanziamenti e prestiti per pagare tasse e contributi, giusto, non hanno dato aiuti a nessuno. Lei è perfetto per un servizio, per un servizio dal signor Del Debbio, dalla trasmissione del signor Del Debbio. Sì, perfetto. Perfetto, ciao Luigi, ciao. Intanto Pregliasco dice che a Natale niente abbracci né baci. David da Milano, ragazzi, non se ne può più. perché con la mascherina non può dare un abbraccio, un bacio, se vuole, almeno me ne frega un cazzo, non può dare un abbraccio, ragazzi, un bacio. Purtroppo per tutti è così, abituiamoci, sta per da Milano, finire. Davide da Milano, ma chi l'ha detto che sta per finire? Chi l'ha detto? Davide da Milano. Buonasera, vai, ciao Cruciani. Cruciani ti racconta al volo la mia esperienza, no, che purtroppo io ho avuto il Covid per un mese, sì, stavo con una mia consorte che, ma quando, quando? Adesso ho avuto il Covid, sono guarito poco tempo fa, sì, e quindi aspetta, l'ho attaccato anche alla mia compagna perché qui sì, ci fanno farsi i tamponi con la risposta rapida, non vanno allora un cazzo, vabbè, quindi però a livello sessuale cala la libido, lo sai, no, perché con l'influenza tu hai ascoltato la cazzata che è stata detto prima, no, ma è normale, con l'influenza cazzata, sei no, stato un mese, no, è evidente, no, malato, no, magari uno c'ha meno voglia, no, ma che vuol no, dire? No, no, la voglia ce l'avevo, facevo tutti i giorni, lo facevo, sì, tutti i giorni, sì, tutti solo i giorni, che c'è meno potenza, meno potenza, no, c'è meno, è vero, cala, è vera, e poi ti subentra quella paura psicologica di qualche altra cosa, poi le televisioni ti bombardano. Comunque questo è una cosa, cioè, che tu ci ho... stai testimoniando che in realtà è vero che cala un po' di desiderio sessuale, cioè ce l'avevi meno cala, duro, cos'è? Mentre lo fai, bravo, bravo, una roba del genere. Meno però duro. Adesso è passato pure quello, è passato pure quello. È una cosa temporanea, stai dicendo, è una cosa temporanea. Temporanea. Però ho vissuto questa cosa e... Vabbè, ciao Davide, ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Incredibile, incredibile, incredibile. Ti voglio far ascoltare una cosa, caro David, ti voglio far ascoltare... prima di chiamare l'autore di quei manifesti, l'autore di quei manifesti, l'autore c'è di quei uno, manifesti, c'è anche uno che non si vergogna e ci mette Koghe, la faccia. Si chiama Koghe ed è il capo di questa associazione Pro Vita che fa questi manifesti contro la pillola antiabortiva. Sono a favore, però lui ha tutto il diritto di farlo. Siccome qualcuno dice bisogna rimuoverli, bisogna rimuoverli, sì, ma perché sono irrispettosi. Libertà, libertà, libertà pure per Koghe, pure per questi qua. Posso dirti che c'è un signore che si chiama Facco, che tu conosci, che dice delle cose un ex leghista, adesso è un negazionista sostanzialmente del Covid, beh, chiamiamolo così per ridurre la cosa, però senti, si rivolge alla polizia, abito qui, venite a prendermi, farò Natale con mio nonno, con mia nonna, con i miei genitori, no, non credo, dice i genitori, senti, vietarci tutto questo perché mi pare ovvio che saranno appunto i signori delle forze dell'ordine a vietarcelo, io ve lo dico già, a casa mia saremo in 10. Abito in via Cagnola 28, se volete venire a bussarvi la porta vi aspetto, perché festeggerò il Natale come ho fatto l'anno scorso, ok? Ok? Festeggerò il Natale con mio padre e con mia madre! Questo sarà il tremendo crimine che io commetterò. Ma se voi vi presterete a venire a bussarsi alle porte, voi non sarete diversi da Eichmann, voi non sarete diversi da qualsiasi cazzone di regime, ok? Adesso voglio dire, immaginare che ci pazzo sia, immaginare che ci sia la polizia, a parte che non succederà, che bussa alla porta perché tu sei con tua madre e ti sei spostato non a vedere tua madre. Beh, l'hanno detto già che non succederà. Ma anche dovesse accadere che qualcuno più zelante del solito va a casa dove ci sono 10 persone dicendo non è che è la polizia di Eichmann, cioè non è Eichmann, cioè non è il nazismo, ragazzi, non esageriamo, non diciamo cazzate. Sono regole che fanno rodere il culo, perché non si capisce, ripeto, perché uno non possa andare dalla Lombardia, dico una cosa a caso, nelle Marche o in Emilia Romagna, se ha una casa, possa andare da solo lì per i cazzi suoi dopo che paga le tasse su quelle case lì. Evitare spostamenti tra le regioni. Ma vaffanculo! Perché evitare le spostamenti tra regioni per tornare alla situazione ex ante, ma non dire quella cazzate che abbiamo visto. Chiamiamo prima. Chiamiamo l'autore di quei manifesti contro la pillola abortiva, dai, forza. Pronto? Parenzo, eccotelo qui, l'autore di quei manifesti. Eccotelo qui, signor Koghe. Mamma mia, cosa? La libertà, uno può esprimere la propria idea? Non è questione di libertà. Può esprimere la propria idea o non può esprimere? Non è questione di esprimere la propria idea, è questione di una cosa vergognosa che va a colpire le corde, il dramma delle donne. Come si fa a paragonare quella roba lì alla mela avvelenata di Biancaneve? Ma che stronzata è? Ma che volgarità è? Dovrebbero togliere questi manifesti dalla città, toglierle immediatamente, vietare la fissione. È una roba oscena, quel manifesto è osceno. Ma lo sa che cos'è osceno? Osceno. Il fatto che nessuno dica alle donne la verità. Neanche il 56% delle donne che prende la pillola RU4. Meno male che c'è la pillola, peraltro. Si ritrova nelle mani i pezzi del feto abortito. Lo vogliamo dire questo? Come pezzi del feto abortito? Ma non diciamo stupidaggine. Sì, perché si può abortire fino alla nona settimana. E lo sa lei che la nona settimana il bambino è già formato? Sì, ma ho capito, d'accordo, ma quello è un altro discorso. Ma cosa vuol dire questo? Il bambino già batte il cuore. Ma ho capito, ma questo è un altro discorso. Voi siete ma voi siete contrari alla... Ma cosa c'entra? Ma voi siete contrari all'aborto in generale? Che vuol dire? Abbiamo vecchi diritti incivili, andiamo. No, però scusami, io sono contrario al fatto che qualcuno rimuova dei cartelli. Ma tolti subito, via. Perché quello, ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni. In Iran, ma no, ma che c'entra? Uno può fare la campagna antiabortista, è legittimo. Parenzo mi ricorda tanto Stalin. In Iran. Vergogna. Argomenti. Scusami, una cosa è diversa. È meglio abortire con una pillola piuttosto che abortire in ospedale. Su questo non c'è dubbio. Una è più semplice. Prendi una pillola e ci saranno sicuramente delle controindicazioni, ci saranno delle sofferenze, come tra l'altro dopo l'intervento in ospedale. Ma qual è il problema? È riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, è riconosciuto dai medici. Qual è il problema? Che innanzitutto questa pillola provoca dei danni enormi. Ma lei ti immagini, scusa, una donna da sola a casa che ha un'emorragia seduta sul proprio water a casa mentre ha questa emorragia? Ma lei ce la immagina? Tu stai parlando che viene diffusa una roba criminale, cioè viene diffusa una roba pericolosa, cioè sì, questo... è una roba pericolosa per la donna, per la salute e la donna. Per questo abbiamo fatto questa campagna dalla parte della donna. Sì, però dalla parte della donna. Ma voi chiedetelo alle donne se la vogliono o no la RU486 invece di dire dalla parte della donna. A parte che sono sempre uomini che fanno ste cagate, sentiamo le donne che cosa ne pensano. Io non posso parlare di medicina, allora? No, ma questa è una stronzata. Coghe, voglio capire una cosa. Elimineresti l'aborto? Questo è il punto. Cioè, per te l'aborto è un crimine, è un omicidio? 10 secondi, posso parlare? No, però dimmelo sinceramente, per te l'aborto è un crimine? Sì, assolutamente. Dunque, certo. Voi credete lo elimineresti? Che il grembo materno sia un essere umano o no? No, per me no. Quando è che diventa? Rispondetemi voi, quando è che quello diventa un essere umano? Quando lo decide, purtroppo bisogna fare una scelta, quando lo decide la legge, siccome è il diritto... E la legge non dà una definizione precisa di quando diventa un essere umano. È stato stabilito, dal momento in cui... Ma tu lo elimineresti proprio, questo è il punto fondamentale. Tu lo eliminerei l'aborto, cioè per te non dovrebbe esistere. Ma voi eliminate i bambini con l'aborto, lo sapete questo? Eliminiamo un principio di bambino, un pezzo. Un essere umano, ma non allora è un essere umano, non è un essere umano. Scusate, perché nel momento in cui una persona gli smette di battere il cuore diciamo che è morta, allora non diciamo la stessa cosa nel momento in cui inizia a battere il cuore? Perché per fortuna è più importante il diritto di una persona ad avere o non avere un bambino piuttosto che dare corso a una cosa che non si vuole fare. Questa è la scelta. Non è una cosa, è un essere umano. Sì, vabbè, d'accordo. È un essere umano. Ragazzi, a quella persona gli batte già il cuoricino. A me mi sembra veramente assurdo che non si possa nemmeno più parlare di questo nel 2020. Ma sì, se ne parla ogni tanto. Debbano essere rimossi perché no, ma quello no. Da voi democratici vergognosi. Ma quello è sbagliato. Momento. Parenzo ha detto questo. Sono molto offensivi, certo. Vediamo i manifesti. Certo. Qual è il motivo? Certo. No, ma quello è ridicolo. Quello il è ridicolo. Messaggio violento che voi proponete contro la donna. Ma quello sono contrari. È un messaggio violento. Fanno una campagna a favore. È una campagna violenta contro la donna. Violento è l'aborto. Ma come si fa a dire che mette a rischio la salute e la vita della donna? Solamente una persona cieca che non vuole avere la pillola. Ma è ovvio che tu l'aborto lo toglieresti anche nel caso di stupro? Cioè anche nel caso di stupro il bambino va fatto nascere? Siamo nel 2020, esiste ancora l'adozione, certo. Cioè dunque mettiamo al mondo il bambino, un bambino deve pagare di uno stupro avvenuto dalla madre? Perché deve pagare il bambino? Ma perché la madre viene stuprata e dunque non ha voluto, quel bambino non l'ha voluto, quel bambino ma lì esiste. Che nascerà è un dato di fatto, però voluto non ma voluto. Non è che esiste povera un pezzo Dio, è ancora sta, ma si sta quel formando un pezzo esiste, di carne sono pezzi di carne ancora non formati. Una disgrazia fare un secondo secondo danno. Niente, già secondo danno, l'aborto, anche in caso errore, di stupro, benissimo. Costringia- e se la donna non lo vuole fare, che facciamo? Violenza. La costringiamo con vogliamo la forza? Mettere violenza su ma violenza? La costringiamo con la forza? Cosa facciamo? Con la forza? È già passata una di violenza. Ma la costringiamo con la forza? Che va fatto? Se uno non lo vuole fare, blocchiamo la donna. No, le donne andrebbero aiutate prima di tutto. Vabbè, prima sì, d'accordo. Come è questa norma di speranza e vengono aiutate le donne ad abortire da sole in casa? Ma l'RU è una... Non c'è nessuno va bene, d'accordo, ma è più facile. Benissimo, uno prende la pillola, certo, arrivederci, grazie. È più facile prendere una pasticca, un pesticida, che uccide ma la che vita pesticida? Non puoi, ma non puoi, donna, ma non puoi parificare il pesticida alla pillola abortiva. Dai, la pillola abortiva è il modo più semplice per abortire invece di andare in ospedale. Dai, su. Sì, vogliamo far chiedere, senta, fenomeno. Vogliamo far chiedere alla donna se preferisce la pillola RU 486 oppure andare in ospedale? Glielo vogliamo chiedere? Vabbè, alcune diranno di sì, altre sì, no. Che un c'è. Sondaggio non credo. Per sapere se è meglio sopprimere i bambini in bagno tra quattro mura. Ma non è sopprimere i bambini. Sopprimere i bambini è nazista. Ma tu pensi che ci sia una mattanza? È come durante il nazismo, allora siamo in un periodo nazista che ammazzavano ma i bambini. Ma non è che io lo penso. Aggiornatevi. Dillo. Siamo in un paese che permette l'aborto, che è l'uccisione di un essere umano nel grembo materno. Dunque un paese, è? Un chiaro. Dunque un paese, uno stato assassino. L'aborto uccide un essere umano nel grembo materno. Voi in periodo di Covid, di distanziamento, salviamo ogni vita umana. Cosa e poi si permette questo sterminio. Ha fatto benissimo. Sterminio era quello ma degli ebrei. Ma quale sterminio? No. Di cosa parla? Lo sterminio silenzioso dei bambini, non ne parliamo. Solo non c'è nessuno sterminio silenzioso, c'è semplicemente una legge dello Stato che è il diritto all'aborto. Ma quali stregoni? Stregoni? Ma che dice? Oh, Ayatollah Khamenei, ma come si permette? Ciao, Gobe. Ayatollah. La Zanzara. Fa Renzo, ho appena visto il video in cui mangi la pizzetta con forchetta e coltello e ti voglio dire una cosa, insegna, cioè a parte che lo faccio anch'io, ma insegna a questi buzzurri che ascoltano la trasmissione e che magari chiamano in trasmissione anche a mangiare la frutta con coltello e forchetta. Perché mangiare la frutta con le mani fa schifo. Cioè ti ritrovi tutta quella roba seccosa di merda sopra le mani, non te la levi più, ti devi sciacquare con la varichina per toglierti quell'azzeccume di dosso. Invece con forchetta e coltello sistemato, pulito, cosa, buono, in Occidente buonissimo. Funziona così. Tutto a posto. Ma io mangio la frutta come cazzo mi pare, adesso non è che mi devo far dire da Parenzo come funzionano queste cose qui, francamente. Anche perché francamente. Ho fatto ieri un video tutorial sui miei social, TikTok, pensate, Facebook, pensate come stai andando messo, per cioè, spiegare come si mangia la pizzetta. Un tutorial di Parenzo come si un mangia tutorial. La pizzetta come la cazzo pizzetta, si deve mangiare la pizzetta si prende e si mangia staglia, si taglia e si prende e si mangia forchetta e coltello sulla macedonia sulla frutta lo stesso perché si presuppone che qualcuno te la sbucci cioè vale a dire io mangio sempre l'assiette di frutta che è un'assiette ma te la prepara che la tua te la prepara composta. La tua schiava no, non usare quel termine in alcun modo sì. Io vado al ristorante quando vado quella al ristorante quella signora che voi schiavizzate a casa l'ho vista io con i miei occhi ti denuncio non ti permetto sostituta non ti permettere, ma ho visto anche la titolare non ti permettere la schiavizzate ho, i bambini spiego questo andrebbe indennizzata spiego questo, cioè si deve spiego, occupare di bambini spiego, scatenati oh, mamma mia. Di bambini scatenati trasmissione la casa ma dove, la casa ma è una cosa ma indegna che trasmissione ma la pagate anche poco e secondo viene, me una parte anche in nero tutta, e secondo me una parte guarda, anche in nero ti devi vergognare. Ti devi Patrizia vergognare da Milano. Oggi prima ti faccio sentire no, giù, giù, un contratto giù, di lavoro. Giù, volevo giù, dire questo. Giù non mi interessa. Prima vi faccio ascoltare la professoressa De Mari che sono delle perle incredibili. Partiamo da questa cosa, ragazzi, non fate l'amore, credo che sia ironico, cioè vi dicono non fate l'amore, masturbatevi o vi prendete il virus. Credo che sia ironica, naturalmente, perché lei è a favore della libertà, eccetera. Fai il liceo, stai a casa, non andare più a scuola. Resta a casa in pigiama e ciabatte, vedrai. Non uscire di casa. Ragazzi, non fate l'amore. Masturbatevi o vi prendete il virus. Se la donna ha avuto l'orgasmo mentre faceva l'amore, è più facile stare incinta. Quando nei giorni in cui ovula, per lei è più facile avere l'orgasmo. Madre natura è dannatamente pro-life. Non ho capito questa cosa, me la fate risentire un attimo. Se una donna ha avuto l'orgasmo è più facile che rimanga incinta. Ma chi te l'ha detta sta cazzata? Questa è una puttanata pazzesca. Sentiamo. Se la donna ha avuto l'orgasmo mentre faceva l'amore, è più facile stare incinta. Quando nei giorni in cui ovula, per lei è più facile avere l'orgasmo. Vabbè, questo. Madre natura è dannatamente pro-life. Vabbè, ma questo che vuol dire? Cioè, non usare il tubo digerente a carattere ricreativo. Questa scrive sulla Verità. Possiamo ricordarlo che è il giornale diretto da Maurice e Beautiful Stone. Sarebbe Maurizio Belpietro. Maurice e Beautiful Stone. Il tubo digerente non è fatto per essere usato a scopo ricreativo. Nella sua ultima parte ha un carattere astioso, poco comunicativo, si offende con infinita facilità. Ma se io voglio inculare qualcuno, punto e basta, che me ne frega di come è fatto un pertugio. Dai, su, ma guarda che è pazzesca questa cosa, dai. È tua amica, sei tu che parli. Ma no, non è mia amica, non vuole più parlare con me, tra l'altro. Esiste l'aborto, purtroppo. Sì, esiste, come abbiamo quello che capita. Ma com'è, purtroppo? Ma cercare un aborto apposta e andare contro la fisiologia. Ma chi? Nessuno è veramente cerca. Dice queste cose? Che non lasci segni. Nessuno cerca apposta. Dice, nessuno lo cerca apposta. Ma dove le dice queste cose? Senti, il Covid è un pretesto per il big reset. Dico una cosa sbagliata se dico che questa signora scrive nello stesso giornale dove scrive Capezzone, ad esempio. Do forse un'informazione sbagliata. È fattuale. Fate voi due conti. Quando Menuzzi dice che il Covid è solamente un pretesto per il Gran Reset. Il Gran Reset vuol dire cosa? Ribaltare l'economia, eliminare Grand tutte le reset. Piccole e medie imprese, ma eliminare tutti i negozi, spostare tutta la produzione in Cina. Beh, forse non ha del tutto torto, no, perché questi non torto. Sono... Vabbè ragazzi, prima di tornare agli ascoltatori, sbaglio se ricordo aspetta, ancora Marco una volta Gorizia, che scrive sullo stesso giornale Marco di questo Gorizia, signor vai, Capezzone. Marco da Gorizia, adesso abbiamo un ospite, sto leggendo un libro molto interessante, molto bello. No, dovresti interessarti a questa cosa, ma l'ho citato l'altro giorno. Marco, dimmi. Ehi, ciao, sono Marco. Ascolta, sono quello che voleva regalare Napoli ai Borboni l'altra settimana. Ottimo. Allora, io sono ginecologo. Allora, sulla pillola abortiva... hanno detto delle cose molto inesatte. La RU, aspetti perché bisogna distinguere. Che cosa vuoi dire tu, Marco? Cosa vuoi dire? Allora, nel senso che le stesse regole che valgono per l'aborto chirurgico valgono anche per l'aborto farmacologico, perché non è che sia un far west. Ma no, che non lo ma questo lo dicono Adinolfi, lo dicono altre persone perché sono contrari all'aborto e dunque sono contrari anche alla vita abortiva. Cioè, ma anche sull'emorragia, non c'è mai un'emorragia come se corresse dal rubinetto. Cioè, tu hai un'emorragia, ma emorragia vuol dire da pochissimo a tanto. Non c'è mai un'emorragia tale da mettere. Ma sì, ma ragazzi, ma lo sappiamo, ma lo non sappiamo dubbio, benissimo. Ma non sarebbe neanche in commercio. Ma sì, ma se fosse Garo, una cosa dai. Dannosa, adesso per carità, ci possono essere anche dei casi straordinari. Ma no, però ma se è fosse un protocollo, una cosa... ma ciao, cosa vuol Marco, dire? Grazie, ciao. Cioè, allora, l'altro giorno, ragazzi, ho letto un passo di un libro che ho quasi finito, incredibilmente. Io non finisco mai qualcosa. Come? È un libro scritto da un signore, è chiaramente uno pseudonimo, si chiama Nick Fibonacci, che sostanzialmente ha fatto lo spacciatore per tanti anni. Ah. Poi è andato in galera, adesso si è ripulito completamente. Bene. Il libro si chiama Io ero, edito da Mondadori, ma veramente lo sto divorando perché è un libro scritto in prima persona su esperienze di vita molto vissuta. Bene. Molto bene. Ho letto il passaggio che ovviamente riguarda il sesso. Per forza. Lo ripeto, lo rileggo. Il libro si chiama Io ero e ve lo consiglio. Allora, lo rileggo. La droga è un imperatore assoluto che non accetta di dividere il trono con altri piaceri, altri sballi, altre ossessioni. Per questo, probabilmente, la dipendenza esclude il sesso. O meglio, lo addormenta, come fa con tutte le altre pulsioni che ti porti dentro. Anestetizza ogni aspetto della tua vita, il peggio ma anche il meglio. E ti libera dalle emozioni per renderti schiavo. Tutti i ragionamenti fatti a posteriori, ovviamente, quando sei tossico non ci rifletti, vuoi solo stare bene nel modo che sei tu. Tra tutte le droghe, l'ero è la più subdola. Perché ti lascia intatte le premesse, ma ammazza l'epilogo. Hai continuamente delle erezioni, anche da Guinness, altro che Viagra, ma non vieni mai. È possibile immaginare una condanna più atroce? Nick Fibonacci è qui con noi con una voce che sentirete un po' diversa perché non vuole essere riconosciuto. Lavora oggi nel mondo della, come dire, nel nostro mondo, in un'azienda, non dico dove, eccetera, eccetera. Lui è di Bologna, non lavora a Bologna. Però insomma, per motivi che sono vabbè, i più vari, frega, per la vita che ha fatto, una non cosa vuole importante. Buonasera. Buonasera. Cruciani, buonasera Parenzo. Senti che voce sì. distorta. Senti, È fastidiosa come la voce di Gottardo, praticamente, però con contenuti più importanti invece. Prendi. Scusami Nick, allora scherzo, dimmi subito ovviamente. una cosa. Ma veramente l'eroina te lo faceva diventare così duro? Sì. Diciamo che l'eroina era il Viagra prima che arrivasse il Viagra, secondo me, a me lo faceva rimanere duro, ma per delle ore, secondo me avrei fatto, il buon Rocco Siffredi l'avrei fatto sbiancare, insomma. Cioè, te lo faceva restare duro per delle ore, ma sei sicuro che fosse l'eroina? Sì, sì, c'era, cioè, uno degli effetti. No, diciamo che insomma, io non ho mai avuto di questi problemi. Chiaramente in questo, come posso dire, quando mi facevo mi rimaneva duro e il problema è che non venivo mai, cioè io potevo stare veramente 2 ore a fare sesso e non si veniva. Però pazzesco, io trovai un escamotage. Qual è, cioè, l'escamotage? L'escamotage è che, insomma, parlo nel libro di una persona. Cioè, di hai trovato una, cioè una tua fidanzata, diciamo, sì, spagnola. Diciamo che era la mia fidanzata dell'epoca, una spagnola. Con cui ti facevi di eroina pure con lei? Sì, vabbè, tu hai letto il libro, l'ho dovuta portare lì, insomma, perché, insomma, vabbè, non sto a spoilerare il libro. E niente, quando la prendevo da dietro e in qualche modo, insomma, quando lei stava per venire, io, sentendo il suo odore, niente, venivo come un drago, cioè era una roba, era come una liberazione. Senti, diciamo, scusa, ma allora è confermato invece, cioè tu hai utilizzato un sacco di tipi di droghe, naturalmente, no? Cioè, quasi tutte le droghe. Ma guarda, negli anni '80 diciamo che non è che c'erano tantissime droghe, c'era l'eroina, poi è subentrata la cocaina e, diciamo, gli ecstasy a metà degli anni '80, ma non c'erano le droghe, almeno in quel periodo lì. In quel momento lì usavamo queste tipologie di droghe, non è che c'erano. Ma perché? Perché ha cominciato a drogarsi lei? Ma perché ha cominciato a drogarsi? Per provare perché? No, è bello. No, io ho cominciato a drogarmi per curiosità. Per curiosità. No. Scusate. Ma poi è uno di quelli che dice che non c'è stato niente di più bello che farsi, cioè non è uno di quelli che dice. Non è un pentito. No, assolutamente, non sono pentito e lo ribadisco che io sono uno di quelli che sostiene che farsi, la gente si fa perché gli piace, fondamentalmente, inizialmente. Cioè, poi tu non, dopo, ti penti, vabbè, sei finito in galera, eccetera, ed è per questo che poi hai smesso. In galera per spaccio sarà finito. Sì, certo, per spaccio, certo. O anche, sì, per altri reati connessi allo spaccio, no, un disastro. No, solo spaccio. Solo. Chiaramente, beh sì, diciamo che sì, perché non mi hanno mai preso con le mani nella marmellata. Ma insomma, qualche infame se la cantò e alla fine sono fatto bene. Infame se la cantò. Senti una cosa, Nick, però la cosa che mi interessa di più, signor, è questa. Nick, tra le droghe, quella che fa tirare, che comunque io non la sapevo questa cosa, cioè l'eroina fa tirare il cazzo. Vabbè. Questo è il punto. Di brutto. L'eroina fa tirare il cazzo. Sì. Però adesso voglio dire, tu dici, tu sei stato anche uno spacciatore, non ti sei mai pentito, che ne so, quando uno dice, se ci fosse Cottardo qui direbbe, beh, tu sei uno di quelli che ha portato alla morte un sacco di gente. Perché questa è una domanda interessante. Tu hai portato alla morte un sacco di gente, oppure ognuno sceglie il proprio destino? Perché io sono convinto che ognuno sceglie il proprio destino. Ognuno sceglie il proprio destino. Assolutamente. Dunque non ti senti colpevole di nulla, di avere, perché tu hai dato probabilmente delle dosi che hanno fatto morire delle persone, lo sai, lo racconti anche nel libro. Allora, diciamo che probabilmente, ma non in prima persona, anche perché io in quel periodo lì la davo solo a una persona e questo era lui che la distribuiva. A me non mi è mai arrivata nessuna. Però non hai nessun rimorso da questo punto di vista. No, assolutamente, anche perché ognuno è libero di fare quello che vuole della sua libero, vita. Insomma, sai, ci sono persone anche molto deboli che si fanno assecondare dalla situazione, quindi adesso un minimo, diciamo, di responsabilità ce l'ha, e come? Beh, io posso dirti questo. Ma se uno non se la sente, non se la sente la responsabilità, scusami. Perché, perché si deve assumere una responsabilità che non si per sente? Per lavarsi la coscienza, ma quello voglio dire. Vabbè, io sono privo di coscienza, dunque benissimo. È per questo che questo qua è un libro onesto, cioè in cui non c'è il pentimento di quello che era un drogato e un grande spacciatore, perché lui era un grande spacciatore, non dico internazionale, perché non era. Però è uno di quelli che prendeva delle partite di droga, che ne so, in un periodo in Thailandia, in un altro periodo ad Amsterdam, e le portava in Italia e spacciava. Cioè, sostanzialmente, poi la cosa era questa qua. Però io voglio dirti una cosa: c'è di eroico in tutto questo? Ma non c'è niente di eroico, infatti. Cioè, uno se l'è goduta e se l'è spassata, così. Beh, dice lui. Sulle spalle di altri, anche, però. Ma che vuol dire sulle spalle di altri? No, sulle mie spalle, anche perché rischiavo io alla fine, insomma, quello che ha rischiato lei ha fatto rischiare altri anche di morire, ovviamente. Ma quindi non me ne vanterei. Era una loro decisione, io non me ne sto assolutamente vantando. Io sto solo dicendo la verità, quello che penso. Senti, quanta eroina ti sei messo dentro il culo? Perché lui si metteva gli ovuli di eroina dentro il culo. Se ti piace così, cosa sì, mi devo si metteva dire? Gli ovuli per trasportarli, si metteva gli ovuli di eroina dentro il culo e li portava in giro, diciamo, per tutto il mondo. Cioè, quante te ne sarei messa dentro il culo? Poi si apre e vai in overdose. No, assolutamente. In overdose vai se le ingerisci. E allora c'è la possibilità che gli acidi gastrici sciolgano i sacchetti. Quando fai la strada alla rovescio, non c'è nessun tipo quanti, di rischio. Quanti chili di eroina ti sei messo nel culo? Hai fatto un calcolo? No, chili. Allora, in tutti i viaggi, cioè, io non l'ho mai calcolata questa cosa, una cosa che non puoi calcolare. Né quanti soldi mi sono ho guadagnato, cioè, sono passati 10 anni. Che poi io lo facevo esclusivamente per mantenere i miei vizi e per fare una vita al di sopra delle mie possibilità. Niente, non mi volevo arricchire, in effetti non sono rimasto, senza un soldo. Perché non sei morto? Non sono morto perché ho scelto di fare tutto ciò con della, lo so che sembra folle, con della razionalità. Cioè io non mi sono mai fatto una pera, non mi sono mai buttato. Ah, hai sempre sniffato. Ho fumato con la spagnola e questo ha praticamente ridotto a zero le possibilità di morire. Sì, HIV, epatiti e cose. Assolutamente, mai usato una siringa, dunque io non. Senti, invece la epatite, cocaina, che immagino hai usato in grande quantità, cocaina il cazzo non te lo faceva tirare? No, tutto il contrario. Poi, vabbè, questo è notorio, ragazzi. Sì, no, parliamoci chiaro, io sto parlando della mia esperienza, non sono depositario di nessuna verità assoluta, quello che mi capitava a me. No, ma certo, comunque l'eroina, cioè, come Viagra, io ragazzi sarò ignorante, ma non lo sapevo, cioè nel senso, probabilmente anche altri, un mio amico da Ibiza mi dice, è vero, anche gli acidi fanno questo tipo di effetto. Vabbè, siete tutti esperti. Ma no, io non consiglio un cazzo, io non mi sono mai fatto un cazzo, figurati, non mi sono mai fatto manco una canna. Io sto facendo degli spot, che sia ben chiaro, io ho raccontato la mia storia. E posso dire che in quegli anni lì si poteva fare tutto ciò, anche perché le maglie erano molto più larghe. Ma sì, ma oggi dove cazzo vai? Non so se era per scelta. No, ma assolutamente. Va bene, però, Nick, ti abbraccio, ti saluto, io ero, ma lo sto divorando, ve lo consiglio. Ciao ragazzi, ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Mia, neanche un cazzo di podcast sapete caricare, neanche un cazzo di podcast. La radio della Confindustria, spezzoni che tornano, che si ripetono, salta, torna, singhiozzo. Mamma mia, in Burundi li sanno caricare meglio i podcast, pezzi di merda. La Zanzara. È una follia, ma non sono pazzi loro, siamo pazzi noi che accettiamo questa questione. Primo. Secondo, qui il tema è che due robusti infermieri devono arrivare a Palazzo Chigi e occuparsi di chi sappiamo lei e io. Terza questione, questa storia dei 70.000 uomini per strade, i droni, i posti di blocco, è una vergogna. Una vergogna. Questo è giusto. Vergogna. Io chiamerei Bacco. Ma come fa avere sempre tre cose? Ma io ogni tanto ne ho una sola, perché tre? Sì, no, sempre tre. È un modo di parlare. E perché ne ha tre? Tre stronzate. Vuoi chiamare Bacco o no? Vuoi chiamare Bacco? No. Dai, medico Bacco, dai. Non è medico. Non è medico. Ti prego, dai. No. Pronto? Bacco? Eccoci. Come andiamo? Mamma mia. Tutto bene. Ah, c'è stata la voce di Parenzo. Beh, avanzano i vaccini, mi sembra, no? Meno male. Avanzano, sì. È quello che tu hai definito acqua di fogna, Come acqua di fogna, sarà acqua di fogna. Ma che c'è dentro? Che c'è dentro i vaccini? No, perché che c'è dentro la sua testa, no? I vaccini, dentro la sua testa, cosa c'è? Tutte le schifezze possibili e immaginabili. Cioè, tipo che c'è? Ogni qualvolta sono stati analizzati i vaccini, si è sempre visto che c'è lo schifo più assoluto, una serie impressionante di metalli pesanti, una serie impressionante di cellule embrionali che si usano ormai da decenni, miseria, e poi chiaramente tutto quello schifo che mettono le case farmaceutiche, ma ormai è diventato una barzelletta. Cioè, c'è un complotto internazionale, quindi cosa c'è? Un complotto internazionale? Ma chi te l'ha detto? Io lo farei subito, subito. Certo. C'è sicuro, visto guarda di stronzate che dice questo. Penso che anche tu le fai, guarda, proprio andresti di corsa, ma tu lo farai sicuramente. Io certo che lo faccio. Sì. Ma sono felice che tu non lo fai, perché così viene tolto una dose in meno a te, una dose in più a chi è più intelligente e ha più bisogno di te. Cioè, tu pensi veramente che facendo il vaccino noi avveleniamo la gente? Pazzesco. Ma sicuramente, è un dato di fatto. Sicuramente. È un dato ma di fatto. Ti hanno cacciato dall'ordine dei medici o no? Nei vaccini c'è tutto lo schifo possibile e immaginabile. Ripeto quello che ho sempre detto. Se abbiamo fatto il vaccino per il SARS-CoV-2, allora ditemi perché per l'HIV, che uccide milioni di persone giovani nel mondo, un virus molto simile, noi non riusciamo a trovare un vaccino. Sono 40 cazzate. Anni che si cerca. Cioè, ma tu stai dicendo che è semplicemente un'operazione economica. Un'operazione economica, questa qua, e basta, che non serve a un cazzo. Ma si vede, è tutta economica. Che hanno cazzate. Fatto 280 milioni di dosi solo in Italia. Addirittura adesso dovremmo fare. Ah, quindi anche l'Inghilterra è impazzita, che invece lo prova subito. L'Inghilterra che lo vuole mettere, anche l'Inghilterra è impazzita. La regia è unica. Qual è la regia? Ma la regia di quell'unico neurone che c'hai nella testa, te. L'unico neurone. Parenzo, tu sei un venduto alle case farmaceutiche. Ormai e io ti querelo. Io ti querelo. Del resto, tu non sei un medico. E io ti querelo. Cosa cavolo, ma tu, parli tu dei sei. Ma tu manco sei un medico. Il medico dei morti sei tu. Il medico dei morti. Io sono il medico dei morti, ma sono comunque un medico. Tu invece inviti solo medici. Dici delle fake. No, io invito solo medici certificati. Però tu scusami. Marco, tu parti. La gente se ne è accorta. Li vedi che adesso li prende a calci il culo. Però scusami, prima li chiamava Marco, eroi quando li pigliavano per il culo. Ma scusami, però tu stai dicendo vergognare. Tu dici sostanzialmente vergognare. Da tempo che il Covid praticamente non esiste. Cioè, vergognati. Cioè, tutto... No, io il Covid ho detto sempre che è un virus che esiste e va rispettato, ma va curato subito da casa. Noi negli ospedali non ci saremmo proprio dovuti arrivare, ma questo finalmente l'hanno detto. Il problema è che non li curano a casa. Non abbiamo fatto le autopsie, abbiamo ucciso, i medici hanno ucciso la gente, lo vogliamo dire. Ma questo dire è gravissimo, no? È gravissimo, ma è gravissimo, ma è gravissimo questa cosa. Ma che così hanno ucciso la gente, hanno ma tu stai dicendo che non esiste seconda ondata, terza ondata, hai detto che non porti la mascherina. Ma basta che facciamo più, ma scusami, ma se noi a marzo facevamo 25.000 tamponi, adesso ne facciamo 300.000, ma è naturale che ne troviamo di più. Questo virus prima o poi dovrà prendere un po' tutti, invece di dire quelle cazzate con quei medici morti che invita lui, tutti quei prezzolati che invita nelle prezzolati. Io spero che ti querelino tutti uno a uno. Dovrebbe dire che invece il virus, la bella notizia è che si cura, che c'è un protocollo. Dunque, secondo che te bisognerebbe prenderselo. In realtà bisognerebbe fare in modo bravo. I giovani si dovevano infettare. L'attenzione. E l'hanno fatto anziani, anche in Inghilterra anziani, sono tornati indietro anziani, rispetto a sta stronzata. Tu dici solo puttanate. E gli anziani in Inghilterra. Pure Boris Johnson. Tu non sai quello che dici. Tu non sai quello che dici. Tu medico dei cani. Medico dei cani. Medico dei cani sei. I giornali sono tutti venduti. Ma perché non parlate con le persone che sono in Inghilterra e in Svezia? Fatevi dire la guarda verità. Guarda che anche l'immunità di gregge Boris Johnson non la fa vero. Più. In Svezia non si muore salame. Più e non hanno chiuso un giorno. In Inghilterra le scuole sono aperte. Ma questo non c'entra niente, però. Ma fanno il vaccino. Vogliono fare la campagna vaccinale. Parenzo, scemo. La gente che si mette la corda intorno al collo. Tu scemo. Come vogliono fare la campagna vaccinale. però in Inghilterra stanno, prima di noi. Un sacco di aziende stanno morendo. Scemo tu non di guerra. Te, tu non te, certo. Non te ne rendi conto, Parenzo. Tu non te ne rendi conto. Cosa c'entra questo? Che mica comandano solo in Italia. Io ti voglio dire, ma questo è proprio fuori. Cosa mi dici della gente che ogni giorno si mette una corda intorno al collo? Dunque, per te, scusami, Bacco, per te c'è un piano. Io ho fatto vaccinare tutti i miei figli. Tutti i miei figli vaccinati. Tutti, tutti. Uno di una marmeria che i figli tornati a casa l'hanno trovato appeso al lampadario. Tu cosa gli dici? Che ci doveva fare il vaccino? Cosa non c'entra? C'entra più per, te, per te, ma tutto cosa c'entra? Scemo di guerra. Per te hanno creato una c'entra che questo? Stanno mettendo il computer la gente. Ma cosa c'entra questo col vaccino? Ma questo è scemo no, proprio. Perché questo qua lui dice cosa che dice ai figli che di chi ha trovato il padre appeso al lampadario? Ma cosa dici? Ma cosa c'entra? Perché lui dice che si sono inventati questo allarme. Questo allarme sono quelli che vengono da te per affossare l'economia. Per affossare l'economia, tu dici, per affossare l'economia. C'è Francesco da Firenze, fermi tutti. Francesco, dimmi. Ah, ottimo, Francesco. Sì, ci sono. Allora, volevo chiedere a Bacco, che non definisco né dottore né signore, perché non è nessuna delle due cose. Volevo chiedere a Bacco come, se si chiede come mai viene chiamato a parlare di scienza solo alla Zanzara, la riserva indiana dei coglioni di tutta Italia. Esatto, questo no. Esatto, ti hai mai fatto questa domanda? Bravo, bravo. E lui ha visto come mai viene chiamato a parlare di scienza solo alla Zanzara, la riserva indiana dei coglioni di tutta Italia. Bacco, poi voglio chiederti un'altra cosa. Così. Bacco, io mi chiedo soltanto una cosa. Però mi chiedo soltanto una cosa. Io, al di là dei ruoli, io voglio no, non c'è nessuna verità al di là, c'è la verità e basta. Fai star zitto, Vanna Marchi. Rispondi tu a quello che ti ho detto fai io. Star cosa zitto, ne sai tu di vaccini non essendo una persona che esercita la professione medica? Esatto. Ma che c'entra che questo? I vaccini sono acqua di fogna, tu sei un topo di fogna, Bacco, hai capito? I vaccini sono acqua di fogna, tu sei un topo di fogna, hai capito? Ma chi sei? Tu hai una laurea in coglionaggine. Io mi auguro tu prenda il coronavirus e lo prenda male e ti senta l'aria mancare dai polmoni e tu debba andare in ospedale e il personale ospedaliero si ricordi che faccia hai, che voce hai, che cosa hai detto di loro e che ti lascino crepare nel parcheggio senza neanche avvicinarti a te. Hai capito, pezzo di merda che non sei altro, parassita della società che non sei altro. Silenzio, silenzio. Ma dice un sacco di puttanate questo. Allora tu, se oggi Parenzo si dovesse sentire male, vai in ospedale, ha un forte mal di stomaco. Cosa ne sai tu che non sei mai stato in ospedale in vita tua? Ma fammi parlare, però non dire cosa ne sai tu di cosa fanno in ospedale che non hai mai esercitato la professione medica in vita tua? Se Parenzo si sente male, lo portano in ospedale, ha un forte mal di stomaco, quindi un infarto che si manifesta male, gli fanno prima il tampone, speriamo gli succeda, lo fanno aspettare un'ora, nel frattempo quello è già morto, ti uccidono già in ospedale. Ma io prego, soccorso, se ci sei tu mi uccidono ancora. Ma io prego poi che non ci sia tu in ospedale, altro che a parte COVID. Non sei mai stato, per cui ma l'autorevolezza di Vanna Marchi, ma cioè non come Don Nascimento, ma non dite Vanna essere. Marchi però ha l'autorevolezza dire, tu, di Vanna Marchi. Parenzo, rispondimi tu, come viene nominato il presidente dell'ordine dei medici? Sale, ma chi se ne frega, il sale, vendi il sale, Bacco, vendi il sale, vendi il sale con Don Nascimento. Se Don Nascimento hai l'autorevolezza del mago Don Nascimento, sì, la Don Nascimento ti sta chiedendo come viene nominato il presidente dell'ordine dei medici. Quanto costa il sale da te? Dimmi, ma quanto costa il sale? Quanto costa tu, il sale? Ma dimmi quanto costa. Con solo prezzolati, ma ti rendi conto? Dimmi, tu, dimmi quanto costa il sale? Quanto costa? Le alghe? Le alghe le vendi o no? Le alghe le hai o no? Le alghe? Le alghe le vendi? Per farti capire che io non sono prezzolato, la mia azienda vende i tamponi, ma io dico ecco che la i tamponi non servono ecco un cazzo. La marchetta, ecco la marchetta. Io i tamponi dico bravo, sempre scemo, che non servono allora. Un cazzo. Bravo, vendi il sale, continua a vendere il sale vendita, allora. Vabbè, ciao, ma io con ciao, qua non ci voglio parlare. Ti abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao. Uguale, ciao, reciproco. Ciao, ciao. La Zanzara. Lo sai che se fossimo nell'antica Roma tu non potresti mangiare al tavolo con me e saresti mio schiavo? Cos'è? Cosa è successo? Cosa è successo? Allora, la la Zanzara, c'è da uno che anzi, la Zanzara male. È onorata di avere praticamente prodotto il suo primo film porno, praticamente. Oh, mamma, un ascoltatore della Zanzara, un ascoltatore sempre senza metterci una lira, ovviamente. No, sempre senza, cioè, la lira. Siamo gli unici produttori che non mettono una lira per produrre. Il produttore è colui che produce, cioè mette dei soldi, scommette. Abbiamo prodotto un film porno. No, io non ho un prodotto nostro, niente. Sì, anche no, tu, no, anche no, tu no. Hai io prodotto nulla, un film hard. Non ho prodotto film hard. Praticamente Alessia Rubini, Alessia Rubini, che è una pornoattrice romana, romana, ha realizzato un film con un ascoltatore della Zanzara. Con un ascoltatore della Zanzara, scelto tra gli ascoltatori della Zanzara. Pazzesco. Ragazzi, non è meravigliosa questa cosa? Pazzesco. Non è meravigliosa. L'imperatrice Messalina. Io lo trovo agghiacciante. Abbiamo prodotto un film hard. Anche tu, Parenzo, no, sei coproduttore. Io mi dissocio di alcune modo. Scene hard. Ma per carità. Un ascoltatore della Zanzara protagonista. Ma niente, uno che scopa vestito d'antico romano con l'imperatrice Messalina. Questa è una storia incredibile. Cos'è sta roba? Cos'è sto romano? Ma forse sta male. Suona un po' finta, effettivamente. Sta Messalina. Claudio D'Agorizia. Claudio D'Agorizia. Adesso fra poco chiamiamo un urologo. Sono proprio no. Che ma succede? La Zanzara, sì, è il sogno da cui hai succhiato, che ti inganna di notte e che muore di giorno, rovistandoti nell'immondo. Ti dice qualcosa Riccardo Benzoni, anzi Richard Anthony John Philip Benson. È un altro squinternato. Che vuoi dire, Claudio? Sei un esegeta, sei un biografo di Richard Benson. La ragazza stuprata non si piange addosso, perché io ho sentito degli interventi di persone che dicono andiamo con ordine. Caro squinternato, perché tale è calma. Io voglio dire, primo c'è stata una citazione di Richard Benson. No, primo c'è stata una citazione di Richard Benson. Secondo, la ragazza stuprata quale? Perché qui abbondano purtroppo le ragazze stuprate, perché qui ce n'è spuntata una nel caso Cruciano, si sta dicendo grande Cruciano, le ragazze Dimmi. Abbondano. Quella del festino. Quella del festino, Cruciano, poi adesso ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra che è spuntata. Che cosa c'è da ridere? Non riesco a capire. Cosa c'è da scherzare? Quella del festino. Sì. Io penso, ok, io sono, diciamo, auspico che lei dica: vabbè, io ho voluto rischiare. Non serve che la gente dica: è povera, me la sono cercata quelli che mi attaccano, oppure mi difendono quelli. No, queste cose non devono succedere. 9 volte su 10 mi è andata bene, stavolta mi è andata male. Beh, cazzo, denuncio, però. Cioè, non è secondo che se lei mi faccia capire. Provo a prendere questo idiota seriamente. Cioè, lei dice: la ragazza, dopo aver subito una violenza come quella, dovrebbe dire: me la sono cercata. Questa è l'idiozia del giorno. Io non ho detto che lei pensa. Claudio la pensa sostanzialmente come la Bernardini De Pace, come Feltri, eccetera. Cioè, se mi è andata bene partecipando a quelle feste per 9 volte su 10, stavolta deve dire: è andata male. Consapevolmente, ma lei ha dichiarato qualcosa. Facciamo i conti senza l'oste. Qua lei ha detto qualcosa. Claudio non si è aggiornato. Innanzitutto c'è tutta una storia che adesso è iniziata, praticamente finirà con il risarcimento. Cioè, questa è già stata ricusata dai suoi avvocati, dai suoi psicologi, questa ragazza, questa dello stupro, non questa che è spuntata fuori a Ibiza. La prima ragazza finirà con un maxi risarcimento, una diminuzione della pena e a tara luce e vino sostanzialmente. Ciao. Intanto Anna da Verona, vai Anna, dimmi. Anna. Ciao Anna. Niente, io ti ho contattato oggi perché ho iniziato circa una ventina di giorni fa a vendere il mio intimo su un sito. Mi sono iscritta, ho pagato per pure questo siamo diventati. Allora aspetta, è interessante questa cosa. Come si chiama il sito? Scusami Anna, come si chiama? Si chiama Panti. Sì. .com. Cioè tu praticamente la pubblichi delle foto tue anche, da quello che ho visto, delle foto tue con il tuo intimo e vendi il tuo intimo cerchi di vendere il tuo intimo, ovviamente come usato. Lo dai? Usato naturalmente, indossato, poi chiedo chi mi contatta come e per quanto tempo vuole che io ma tu sei, hai un fidanzato, hai un marito, che cos'hai? Sei sola? Sì, io sono sposata. Tuo marito è d'accordo con questa compra? Non lo so. Mi ha dato il là perché annusandomi mi ha detto che ho un po' profumo Il marito annusandola. No, però scusami Anna, io voglio capire una cosa. Cioè, bella tu famiglia. Vendi le mutande, poi vabbè, questo. E poi niente. Allora, in teoria funziona che loro mi contattano, io dico quanto, per quanto le cedo, però si gira sempre sul discorso porno, cioè cercano il contatto via. Te credo, amica mia, cioè, che devono fare? Cioè, cioè, ok, però il sito sarebbe dedicato per la vendita di intimo. Ma non ho capito, tu vendi solamente le mutande per il momento? Mutande, collant, vestiti. E il marito è contento. E il marito è contento. Scelta, addirittura il marito che sceglie. E dimmi se è normale questo paese. Perché gli piace. L'idea è che la moglie quindi annusa. Ma che bella famiglia. Quindi il marito, vi faccio capire, annusa, poi sì, questa la mettiamo in vendita. Ma sembra, qual è il problema? Ma non voi, no, ma per carità, sono strano io. Ma a voi sembra normale che il marito della signora annusi le mutande? Ma perché non compri un paio di mutandine? Perché non sei ma non uno ci dei penso minimamente. Ma mi fa schifo l'idea di prendere le mutande di una signorina che usate, peraltro. Ma beh, di chi stiamo parlando? Quello è il punto fondamentale. Non vi stupite se poi il sovranismo ha in alcune zone. Te lo dico io. David, è che non riesco a vendere perché io sono timida. Credo. Video non ne faccio, incontri neanche, io voglio vendere le mie mutande, mi eccita tantissimo l'idea mi che qualcuno possa avere un oggetto mio e annusarmi. Ma pensiamo, cioè tu l'idea che qualcuno possa avere le tue mutandine, annusarle, posso per chi ha e votato magari si lei alle ultime eccetera, elezioni, esattamente, sì. Mi fa eccitare. Però, lei per chi ha votato alle ultime elezioni, posso sapere così al volo semplicemente tanto? Io esco da una famiglia di sinistra, quindi io ho votato PD. Votato PD, mi dispiace, no, per te. Mi dispiace. Ciao vero. Anna, ciao, grazie. Ciao. Non può essere che una. Allora, abbiamo qui, dopo un sacco di tempo, per chiarirci le idee se questa cosa qua del Covid legato all'erezione, del Covid legato a, come dire, no, a diminuzione della libido. Dobbiamo capire se è vero o no, ragazzi. Dobbiamo capirlo, se ci stanno propinando l'ennesima cazzata oppure può essere vero. Il grande urologo Pierluigi Izzo da Napoli. Buonasera Izzo, come stai? Buonasera, tutto bene? Tutto bene, non c'è male. Ricordate, è quello della figa dentata, ragazzi. Izzo è quello della figa dentata. Ricapitola un po' in 30 secondi qual è la teoria della figa dentata, per chi non lo sapesse, caro Izzo. La vagina dentata è quando l'uomo, finché si tratta degli approcci extravaginali, va tutto bene. Sì. Come va a entrare in vagina? È come se avesse i denti, sì. E quindi se ne scende per strada, la famosa espressione. Cioè, com'è? Cioè la vagina dentata, la sindrome della vagina dentata è il terrore della figa, non ho capito, il terrore della... di entrare dentro, perché finché sei fuori è fantasia, come entri dentro è realtà, è la donna che... E dunque la sindrome della vagina dentata qual è? Quella che tu praticamente appena entri dentro ti si ammoscia, quello è il punto. Questo tu generico non mi piace, in tutti i casi così. Tu generico non mi piace. No, vabbè, sì, certo. Bravo, dottore, bravo. Almeno su questo. Ma quante persone ci sono con la sindrome della vagina o figa? Ma potenzialmente tutti gli uomini. Tutti, se il maschio non è padrone di se stesso, stai tranquillo che la vagina dentata è... cioè il terrore della vagina, questo ma è il punto. Ma che problemi avete per parlare di questo? Siamo legati alla penetrazione, quindi alla prestazione legata al coito, mentre invece il Kama Sutra e sulle sue dentali no. E allora? Il Kama Sutra stanno a capa sotto, sono tutti strani, storti, però loro magnificano tutto il corpo del maschio e della femmina. Invece noi, se non l'abbiamo introdotto lì dentro, non se ne parla, non hanno fatto niente. Ho capito, però allora qual è la sindrome? Non ho capito ancora. Uno, la sindrome della vagina dentata è praticamente il terrore di non farcela, questo è il punto. No, sì, vabbè, ma che si identifica con la penetrazione. Ho capito. Quindi come se la vagina avesse i denti e ti azzannasse. E molte persone vengono da te a consultarsi perché dice, vabbè, ma ho paura che la vagina mi addenti. No, lo estrapoliamo in corso del discorso. Parlando si capisce che poi il timore... E l'obiettivo è quello di penetrare, e il timore è quello di penetrare lo stesso. Capito. Poi... Senti, ma l'infertilità è una cosa seria, quello riguardo il Covid, ci puoi dare delle notizie da questo punto di vista o no? Dai. Cioè l'erezione attacca le palle, il Covid attacca lo scroto, attacca i testicoli. Ma pensiamo che attacca tutto il corpo, purtroppo. Vabbè, d'accordo, ma può esserci davvero un problema di erezione dopo che uno guarisce oppure no? Cioè possono. Ah sì? Bisogna vedere come esce dal Covid, attenzione. E poi il Covid sono gli effetti indiretti legati alla sopportazione coniugale, per esempio, la coppia convivente che non può uscire di casa, specie nella prima ondata, e adesso pure stare davanti a una televisione a vedere quattro 4-5 episodi di Netflix, insomma, è pesante, si penalizza l'intimità. Ma tu stai riscontrando che si scopa di meno? Ma quello certamente, certamente. Cioè, col Covid si scopa meno, la coppia scopa c'è meno. C'è meno intimità, paradossalmente c'è meno intimità perché c'è troppo tempo di convivenza, la coppia scoppia. Capito Parenzo. Questo anche per te vale, stai attento a questa cosa qua. Troppo tempo passato insieme dentro casa, come vorresti tu, blindato dentro casa, scopi di meno, stai attento. Questo lo sta riscontrando Izzo in molte coppie che vanno da lui, evidentemente. Vedremo con Izzo. È una crisi di intimità. Una crisi di intimità. Riverbera anche sul sesso. Senta caro Izzo, tu per caso hai sentito parlare mai del pene palmato, della sindrome del pene palmato con la circoncisione? Perché una circoncisione sbagliata può portare a un pene palmato, cioè dire lo scroto che arriva praticamente a metà del pene, può essere? Certo, come no. Questo sono malformazioni non molto frequenti per fortuna, ma sono malformazioni che esistono e sono più evidenti nella fase prepuberale, quando il bambino c'ha anche l'adipo pubblico, il monte di Venere sul maschio, per cui che si mangia il pene in pratica. Ti mangia il pene. Prima di cena. No, io capisco, David, qual è stato il tuo problema per tanto tempo. Hai avuto il pene mangiato dallo scroto. Ma mangiate voi, io non ho mangiato niente, nessuno ha mangiato niente. Senta, una cosa flash, che qui mi dicono che siamo buoni ai titoli italiani di coda. Aspetta, poi approfondiremo. Se ti masturbi stringendo molto forte, questa è una teoria che... Può esserci una perdita di sensibilità del pene? Porca miseria. Beh, certamente sì, legato sia ai danni della spremitura e sia al fatto di fermare lo sperma, che è un indirizzo anterogrado, va in avanti lo sperma. Se stringiamo torna dietro e quindi frega la prostata. Frega la prostata. Dunque, cioè, fosse per lei la masturbazione dovrebbe essere limitata, diciamo la verità, cioè meno ci si masturba, No. Tutto ciò, ma se è spontanea, no, certamente. Tutto ciò che è spontaneo non va limitato. Sì, ma voglio dire, stringere molto l'uccello mentre ci si masturba può essere pericoloso? Ma quello sicuramente non fa bene, anche perché a volte lo si associa all'eiaculazione precoce, quindi banalmente il maschio stringe il glande e poi torna. Mamma mia. Lo so, ragazzi, è un casino. Povero chi cicale, capito? Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.